Voci di piccola impresa. Idee anticrisi di Anna Marino. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Oggi ci chiediamo come cambiano i settori tradizionali che devono giocare la loro partita per sopravvivere alla crisi economica. La risposta si trova tra le parole e nell'esempio dei protagonisti proprio di oggi. Hanno rivoluzionato un settore tradizionale come il manifatturiero, rendendolo new age. Nella prima storia, grazie alla ricerca e ai brevetti nati da collaborazioni con l'università, che portano addirittura a sbarcare sul mercato cinese. Nel secondo caso, grazie a un'intuizione, lanciarsi in un nuovo campo del digitale, quello della stampa in 3D, innovazione che oltre ai classici prototipi può realizzare modelli per l'architettura, modelli tattili per non vedenti e ipovedenti, oggetti di merchandising. Iniziamo da Site Group, www.sitegroup.com. Sono proprio dell'imprenditore torinese Davide Canavesio, presidente dei Giovani Industriali di Torino, gli impianti di trattamento termico a induzione elettromagnetica tra i maggiormente richiesti dalle aziende dei più svariati settori, dall'automotive all'energia rinnovabile. Ecco perché. La nostra azienda fa macchinari per temprare i metalli a induzione. Detto così è difficile da capire, ma ognuno che ha un'auto, se non gli si rompe l'albero motore o un pezzo qualunque di metallo della sua auto è perché è temprato su dei macchinari nostri. Questo è quello che l'azienda ha sempre fatto nella storia. Produceva impianti per fare questo, quindi automotive un settore importante. Io da circa 6 anni sono rientrato in azienda lanciandola su un nuovo modello di business che poi si è rivelato anche essere l'idea anticrisi, perché per me quello che è idea anticrisi è in generale un'idea vincente di business. Io volevo che noi passassimo dall'essere manifattura di impianti a essere i veri detentori di una tecnologia. Noi lavoriamo con l'induzione elettromagnetica. Io non sono ingegnere, sono amministratore delegato di questa azienda e quindi per capire la tecnologia mi sono avvicinato e ho studiato chi ha inventato l'induzione elettromagnetica, chi l'ha scoperta, che è Michael Faraday. Quando io cercavo di analizzare proprio il piano dell'azienda, studiavo la storia di Michael Faraday, che è una storia veramente affascinante. Quindi di lì abbiamo spinto sull'eolico e di lì siamo riusciti oggi, con un brevetto mondiale e avendo firmato anche i primi contratti con il numero uno al mondo, in Cina, ma è il numero uno al mondo ed è un cinese, per fare dei macchinari che producono lingotti di silicio per il fotovoltaico con un grandissimo risparmio energetico. Chi vi ha dato una mano per fare la svolta? Ah sì, è fondamentale, cioè quella è l'intuizione, quello che ho raccontato prima. Poi che cos'è che mancava davvero all'azienda? Dovevamo rafforzare la parte di innovazione, di R&D. E quindi io ho vissuto sia negli Stati Uniti che anche a Londra e nella cultura anglosassone il rapporto impresa-università attraverso il sistema degli spin-off è molto più evoluto. Allora, tornato in Italia, ho mappato in Europa quali fossero gli spin-off che si occupassero di elettrotermia, di induzione elettromagnetica. Ho trovato a Padova il miglior centro di elettrotermia che c'è in Europa, è uno dei migliori al mondo e quel dipartimento aveva lanciato uno spin-off. Allora, 4 anni fa, noi abbiamo acquisito la maggioranza di questo spin-off, fondato da 2 professori, con 5 persone che hanno il dottorato e con loro abbiamo iniziato a immaginare tutti i percorsi che potevamo fare con l'induzione elettromagnetica, che hanno fasi diverse. Uno dei primi è stato proprio quello di introdurre l'induzione elettromagnetica nel fotovoltaico. Senza di loro noi non avremmo potuto farlo, ma loro senza di noi non avrebbero mai potuto fare l'industrializzazione. Certo, cioè, questa è il connubio virtuoso tra la ricerca e l'industrializzazione. Voi stessi avete avuto un'esperienza talmente positiva che mi chiedo se diventerete propulsori della validità della ricerca dell'innovazione anche della, diciamo, all'interno delle strutture universitarie. Sì, anzi, proprio in questi giorni stiamo lanciando un'iniziativa che mi dicono essere tra le poche in Italia all'interno del PMI, che noi chiameremo SAET Academy. SAET è il nome dell'azienda, SAET Academy, che è un centro di formazione permanente delle nostre risorse sulla tecnologia dell'induzione, ma su skill, soft skill e anche in generale su quello che è uno sguardo al mondo. Perché è questo, la nostra è un'azienda dove l'asset vero sono le persone e quindi è la conoscenza delle persone, stiamo cercando di fare un passaggio oltre. Prima, e non lo molliamo, anzi, abbiamo un centro di eccellenza di ricerca, di R&D, che è uno spin-off universitario che genera nuove idee. ma adesso vogliamo un rientro e un ritorno di questo, alzando di molto il livello sia nelle cosiddette soft skill che nelle hard skill, che sono quelle più tecnologiche, di tutti i nostri dipendenti, dal magazziniere al dirigente. E la volta di Protocube, www.protocube.it. È stata fondata da tre amici, Leonardo Peretti, Daria Tirone e Alberto Barberis, ingegneri creativi formatisi presso il Politecnico di Torino. Nata nel 2006, ha vinto un premio alla prima edizione del concorso Start Cup Torino Piemonte, www.i3p.it. Oggi è ospite dell'incubatore d'impresa Uni.ver a Vercelli, www.univer.polito.it. Alberto Barberis spiega che cos'è la stampa in 3D. L'idea di costituire Protocube, una società che si occupasse di prototipazione rapida per prevalentemente per settori legati alla creatività, quindi architettura, design, arte, è un'idea che è nata nel 2005, quindi in un periodo in cui di prototipazione rapida se ne parlava veramente, veramente poco, quindi abbiamo scoperto l'esistenza di queste macchine che permettono di ottenere oggetti fisici, solidi, partendo da un disegno tridimensionale digitale. La cosa ci ha incuriosito, abbiamo verificato che non esisteva nulla legato all'architettura, al design, alla creatività che permettesse di utilizzare queste tecnologie, e quindi da lì abbiamo costituito la nostra idea di impresa. Ecco, questa idea ha avuto un momento in cui si è accesa la lampadina, cioè il giorno dell'idea, me lo può raccontare? Il giorno dell'idea lo ricordo molto bene, come fosse ieri in realtà. Mi sono trovato con i miei due attuali soci, che prima di essere soci sono ed erano amici, e a seguito di una partecipazione ad un concorso di architettura per giovani laureati, nel quale avevamo sviluppato tutto un progetto, avevamo realizzato un modello di 3D digitale con dei rendering, quindi delle immagini virtuali di questo oggetto, ci siamo trovati chiacchierando di questa cosa, a pensare che ci sarebbe effettivamente piaciuto poter passare da un modello digitale, quindi disegnato a computer, di poter passare in tempi rapidi e con una precisione molto elevata ad un oggetto fisico. Da lì abbiamo scoperto, informandoci, navigando su siti specifici, l'esistenza di stampanti 3D, e questa cosa ci ha incuriosito, per cui ci siamo informati e abbiamo verificato che, per quanto concernesse il discorso architettura, design, quindi tutto, diciamo, aspetti legati più alla creatività, non c'era nulla a livello mondiale che permettesse l'utilizzo di queste tecnologie per questi settori. Ecco, la cosa particolare è che, ovviamente, anche per visualizzarlo per chi ci segue, è che si stampano, è come se si stampassero, invece che dei fogli in A4, addirittura degli oggetti, e questa è una cosa sorprendente. Esatto, praticamente queste macchine mi permettono di ricreare qualunque oggetto io abbia disegnato a computer, che risponde a determinate specifiche, però di fatto non ho vincoli di forme geometriche. Come avviene la realizzazione? Sono tecnologie additive, cioè costruiscono l'oggetto incollando banalmente tratti successivi di materiale uno sull'altro. Si va da materiali che partono su base polvere, sono una polvere a base gesso che viene poi trattata con delle resine che permette di poter stampare oggetti anche già direttamente colorati dalla macchina, a un materiale che è una poliammide, una sorta di polvere di nylon, quindi un materiale plastico che consente di ottenere oggetti con un'elevata resistenza meccanica, fino a delle resine che sono delle resine liquide, che vengono dei fotopolimeri che vengono solidificati poi con dei raggi ultravioletti, oppure dell'ABS, che è un materiale più noto, un materiale plastico che si ottiene tramite la fusione di un filamento. Si pensa che in un futuro anche prossimo possano permettere effettivamente, grazie alla distribuzione capillare di una serie di centri che abbiano a disposizione fisicamente queste stampanti, quindi la possibilità di inviare direttamente dei file già stampabili, già utilizzabili direttamente da queste macchine, che poi possono effettivamente essere utilizzati dal cliente finale e fatti stampare vicino casa, insomma. Quali sono le leve che vi hanno aiutato? Quali strutture vi hanno dato una mano e com'è stata la vostra esperienza? Diciamo che parallelamente all'attività di approfondimento tecnico, no, degli aspetti della prototipazione, abbiamo effettivamente subito utilizzato e verificato la possibilità di utilizzare uno strumento che era quello dell'incubatore di imprese, in quanto il Politecnico di Torino, proprio ogni anno, bandisce un concorso legato alla presentazione di idee imprenditoriali ad elevato contenuto innovativo e tecnologico. Noi appunto nel 2005 abbiamo quindi redatto un business plan e partecipato a questa Start Cup, si chiama, di premi per l'imprenditoria giovanile. Abbiamo vinto il secondo premio speciale della sezione Univer e questa è stata una leva che ci ha permesso sostanzialmente di effettivamente di poterci guardare in faccia e dire ok, abbiamo partecipato, è stato quasi un gioco fin qui, adesso abbiamo vinto un premio e quindi che cosa facciamo? Ecco, voi consigliate questi incubatori di impresa e quali porte aprono? Li consigliamo per un duplice motivo, ti obbligano a farti i conti in tasca, cioè con la necessità di dover presentare un business plan per poter partecipare a questi concorsi, per entrare all'interno di un incubatore, hai l'obbligo diciamo di dover iniziare a mettere su carta anche dal punto di vista economico l'idea che hai in mente. Questo ti permette di iniziare a fare dei primi ragionamenti, ad avere dei primi riscontri per capire se la tua idea effettivamente torna. Il fatto di essere all'interno di un incubatore con alle spalle un ente come il Politecnico di Torino o come altri in ambito universitario sicuramente ti aiuta per acquisire maggiore credibilità nei confronti del cliente.